24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giovanni Legnini, 55 anni, sposato, con due figli, avvocato, parlamentare dal 2004, eletto a Chieti come capolista dei DS. Come sottosegretario nel governo Letta si è occupato di editoria e di attuazione del programma. Confermato nel governo Renzi al Ministero dell'Economia, è stato eletto a larga maggioranza vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Guiderà il CSM in un momento di tensione, con la magistratura scossa dal caso De Magistris, dallo scontro nella Procura di Milano tra il capo Brutti Liberati e il vice Robledo, dalla proposta di riforma del ministro Orlando e dalle parole del premier Renzi sulle ferie dei giudici. È il primo politico che passa direttamente dal governo al CSM. Allora, onorevole Legnini, con lei è tornato il primato della politica, come dice il presidente Renzi? Mi piace ispirarmi a quel concetto di soffio esterno, come ha detto il presidente Napolitano, che volle il Costituente allorquando immaginò questa composizione mista, ecco, del CSM, e aggiungo che non sono il primo che dal governo passa al CSM. Allora, quel direttamente non attende alla mia volontà di essere imparziale e terzo. Senta, in quella funzione. Ma cosa significa primato della politica, in due parole? Ma non c'è un tema che riguarda il primato della politica nell'organo di autogoverno. C'è un profilo di più istituzionale, più proteso ad accettare questo terreno delle riforme. Ma è un, quindi siete è un aspetto, impegnati è un in aspetto questa direzione. Che vedo che anche la componente togata ha accettato. Accetta. Ecco, intanto però chi ha fatto il percorso inverso dalla magistratura alla politica non rispetta molto i suoi ex colleghi. Senta De Magistris. Ho fatto il mio dovere fino in fondo e ho pagato perché ho fatto il mio dovere. Se proprio qualcuno oggi deve sentire dentro un sentimento, come dire, di difficoltà per un provvedimento ingiusto, sono i magistrati che hanno scritto quella sentenza. Cioè, i magistrati devono i cittadini devono rispettare i magistrati e le sentenze, lui può trattarli così? Beh, credo che lui abbia il pieno diritto di criticare la sentenza che lo riguarda e tutte le sentenze che ritiene. No, qui credo che sia andato però oltre le righe il sindaco De Magistris. Senta, ma è difficile andare oltre le righe, poi cosa significa in concreto rispetto ai cittadini comuni? Significa che lui, come gli altri, le sentenze le deve rispettare, fatto salvo il diritto sacrosanto di criticarle, di impugnarle, certo, di reagire nei modi che l'ordinamento prevede. Ma non sarebbe giusto rendere più difficile il passaggio tra magistratura e politica? Nel modo così diretto. È un tema ampiamente dibattuto negli anni, credo attenuato dal fatto che questo fenomeno si è drasticamente ridotto. Il tema è che cosa accade dopo, non che cosa accade prima. Certo, quando poi cioè, è finita l'esperienza politica. La mia personale opinione è che chi dalla magistratura passa alla politica non può più tornare indietro. Non può tornare indietro, o comunque deve tornare a svolgere una funzione totalmente diversa in luoghi molto lontani da quelli che hanno preceduto la sua esperienza. Senta, politica. Ci sono stati troppi sconfinamenti e sovrapposizioni però in questi anni tra politica e magistratura? No, questo è un dato storico acclarato. E il male profondo è quello proprio? È una delle patologie che dobbiamo superare. Senta, ma intanto, secondo Renzi, i magistrati fanno troppe vacanze, senta. Non è attentato dei magistrati dire che se ci sono 45 giorni di sospensione feriale, di ferie, dal 1 agosto al 15 settembre, se i magistrati e gli avvocati ci fanno la cortesia di lavorare un pochino di più, ma le sembra possibile che ci sia 45 giorni di ferie quando chi ci segue da casa si spacca la schiena e magari c'ha molto meno tempo? Ecco, su questa affermazione di Renzi noi abbiamo fatto un fact checking, cioè un confronto di verità. Il Presidente del Consiglio ha torto per i 6.330 magistrati ordinari che hanno 30 giorni di ferie come tutti gli altri. Ha ragione invece per i 2.122 magistrati inquirenti che ne hanno 45. È una polemica utile che serve a far chiarezza? Credo che il parere che abbiamo reso ieri a proposito del testo di riforma del processo civile aiuti a capire meglio come stanno le cose. Gran parte dei magistrati hanno utilizzato i 45 giorni in parte per lavorare, per scrivere le sentenze. I 2.122. Siamo molto oltre. Siamo molto oltre perché non è vero che 30 e 45, che alcuni fanno 30 e alcuni 45. Fino ad oggi, fino al decreto, i 45. 45 erano per tutti, e oggi si passa a 30. Il tema è rendere effettivi questi 30 giorni, okay, e fare in modo che si verifichi una, come si dice, un'aderenza tra questa nuova disposizione e aspetti ordinamentali che sono stati sottolineati nel parere. Io non credo che il problema dell'efficienza, ovvero dell'inefficienza della giustizia, sia legato alla quantità di ferie. Questo non lo penso, anche perché proprio ieri il Consiglio d'Europa ha detto, con numeri, dati, cifre, che i magistrati italiani sono, udite udite, i più produttivi di Europa, quanto a numero di sentenze, quanto a capacità di smaltimento. Senta, dell'arretrato. Ma i giudici sono stati però a lungo eroi intoccabili, adesso la loro popolarità è diminuita, secondo lei perché? In una parola. Secondo me perché si è stabilita un'equazione sbagliata, ma che purtroppo ha un ancoraggio su alcuni fatti, vicende, comportamenti, tra l'inefficienza e le disfunzioni del sistema giudiziario e i magistrati. Dobbiamo superare questa equazione. Onorevole Nini, per essere chiari, l'idea che un giudice che sbaglia in qualche modo deve pagare non è mai passata nella testa dei cittadini. L'idea è che chi un giudice che sbaglia non paga. E in realtà sarebbe necessario, no? È un tema che si pone, che è all'ordine del giorno in Parlamento, al Senato. La settimana prossima inizieremo ad esaminare questo provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati e vedrete che l'atteggiamento dell'organo di autogoverno sarà propositivo. Cioè, il CSM e propone qualcosa su questo piano? Proporrà qualcosa. Non è che vedrà. Ce l'anticipa? No, perché mi sono impegnato alla collegialità nel lavoro delicato e importante che siamo chiamati a fare. Il CSM proporrà qualcosa sulla responsabilità civile dei giudici. Senta, 30 anni fa cosa diceva Montanelli? Io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti. Oggi noi abbiamo una magistratura che non risponde a nessuno dei suoi errori, spesso catastrofici. Andrà in questa linea la sua proposta, la proposta del CSM? Guardi, io posso dire con certezza ciò che bisogna evitare, cioè bisogna evitare che l'azione diretta, come si dice, del cittadino nei confronti del magistrato, perché uscirebbe fortemente indebolita la capacità della magistratura. Questo è un aspetto. Di esercitare. Dopodiché bisogna trovare una soluzione che consenta a chi ha subito ingiustizie e torti di essere risarcito. E dobbiamo anche evitare che l'Europa ci imponga una soluzione, perché il tema è stato posto dagli organismi europei. Se uno pensa ai giudici di Tortora, insomma. E io credo, senza anticipare nulla, ma che il percorso normativo che è stato avviato dal Senato vada nella giusta direzione. Bisognerà discuterne, approfondirlo, valutare, fare proposte, ma va nella direzione giusta. Ma per esempio, per capirci, quando in una procura importantissima come quella di Milano si assiste a uno scontro così violento come quello tra il procuratore capo Brutti Liberati e l'aggiunto Robledo, ma lei cosa pensa che possa pensare la gente? Che si indebolisce l'autorevolezza e il prestigio di un ufficio così importante. Appunto. Che ha fatto un pezzo di storia. Esatto. Di questo paese, e noi abbiamo il dovere di ripristinare questo prestigio, questa autorevolezza. E quindi vuol dire in due giorni, dottor Minoli, abbiamo avviato la procedura per decidere. Vedrà, decideremo in fretta e decideremo nel modo più giusto che gli organi chiamati, le commissioni, cioè, consigliare il plenum. Lei mi sta dicendo riterranno. Che il Consiglio Superiore della Magistratura interverrà su questo tema. Senta, ma quanto conta il rapporto in queste storture troppo stretto tra i media e la magistratura, che portano alle personalizzazioni? Senta ancora Montanelli. I giornalisti hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia, noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo. Questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati i giornalisti? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Ecco, onorevole Legnini, anche lei è convinto che ci siano PM che riconoscono come confini per la loro azione solo quelli legati alla visibilità delle loro inchieste? Guardi, io penso che il rapporto tra informazione, media e magistratura presenti dei tratti patologici che dobbiamo superare. Questo è un grande tema sul quale io promuoverò una riflessione. Innanzitutto noi cercheremo di accrescere il grado di conoscibilità delle decisioni, di trasparenza delle decisioni del Consiglio, quindi di tutti i provvedimenti che riguardano l'autogoverno della magistratura. E poi bisogna andare oltre, bisogna fare in modo che si stabiliscono modi, regole, costumi, diciamo così, chiari, pratiche chiare, chiare per esempio, nel rapporto tra i magistrati, requirenti e decidenti e i mezzi di informazione. Ma la patologia risiede nella assenza di regole. Ecco, ma per esempio, per fare un caso concreto, sulle intercettazioni bisognerà intervenire, sull'uso delle intercettazioni? Secondo me bisogna intervenire nel rapporto tra le intercettazioni irrilevanti ai fini del processo, certo, e la loro, pubblicizzazione. Pubblicazione. Bisogna interrompere questo circuito che ha fatto molti danni in questi anni. Senta che profonda autocritica su questo punto fanno due grandissimi magistrati come Ilda Boccassini e il procuratore capo di Roma Pignatone. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto, una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro, è inutile negarlo, questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Beh, fortissime queste due testimonianze. Sono testimonianze molto chiare che io condivido. Ecco. Mi auguro che le cose andranno nel senso da spiegato da Pignatone e dalla Boccassini. Ecco, quindi il suo CSM, quello guidato da lei, la stagione dell'uso personale a fini, come dire, di gloria personale finisce. Deve finire. Senta, onorevole Nini, anche l'obbligo dell'azione penale in discussione. In Italia sono a ruolo 4.000 cause per 100.000 abitanti, il doppio della Germania. Presidente del Senato Grasso, ex magistrato, dice che la norma va rivista. Anche lei lo pensa? Io penso che il complesso delle riforme deve abbattere questo mostruoso carico di arretrato. L'obbligo dell'azione penale è uno degli elementi. Ma io penso che al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non si possa rinunciare, mentre invece si può intervenire sulla depenalizzazione di molti comportamenti. Lo sa che a volte fa molto più male una sanzione pecuniaria effettiva, concreta, che non una minaccia di sanzione penale che più delle volte non si realizza. Ecco, un imprenditore polacco di funghi, dopo 4 rinvii di un'udienza al Tribunale di Treviso, ha detto: questa non è l'Europa, ma un girone infernale. Ha torto? ha esagerato un po', perché non è poi il sistema giudiziario italiano presenta tanti aspetti di civiltà, di equità, di anche di funzione, vi sono moltissime buone pratiche, ma non c'è dubbio che noi dobbiamo recuperare efficienza e tornare ad essere attrattivi e competitivi, anche per, relativamente all'amministrazione della giustizia. Ecco, il CSM dice però che la riforma Orlando non porterà processi più veloci, è vero? Non è esattamente così. Il CSM ha sottolineato gli aspetti critici, formulando proposte, ha formulato delle pareri di condivisione. È un provvedimento parziale. Adesso bisogna fare la riforma organica della giustizia civile. D'accordo. Questo lo pensa il CSM, ma lo pensa anche il ministro Orlando, che ha già avviato la procedura. Ecco, che cosa le piace della proposta di Orlando? Mi piace il suo respiro organico, sistematico e sistemico. La voglia, la volontà, con proposte che sono state puntualmente indicate, di arrivare a un punto conclusivo, cambiare il sistema. Come farlo? Sul come farlo noi interverremo, il Consiglio interverrà con proposte e anche con critiche laddove sarà necessario. E che cos'è che critica di sicuro? Ma fino a questo momento ci siamo espressi sul decreto processo civile, c'è un elenco di critiche e di condivisioni. Il testo si può migliorare e so che il Parlamento sta già lavorando in questo senso. Senta, i magistrati dell'Associazione Nazionale dei Magistrati dicono che se non si procede con le norme antiriciclaggio si rischia la resa dello Stato. Lei è d'accordo? Io sono, perché la norma sull'antiriciclaggio si faccia rapidamente e bene. E la Camera proprio ieri ha licenziato un testo in commissione che andrà in aula nei prossimi giorni. Mi auguro che si arrivi a una conclusione rapidissima. Senta, intanto Totorina, Bagarella e Mancino non assisteranno alla deposizione a porte chiuse del presidente Napolitano. È giusto? È giusto, è un bene che ciò non sia accaduto per il prestigio delle nostre istituzioni, della Presidenza della Repubblica in particolare, è una buona notizia. Ma non c'è rischio di nullità per il processo? Questo lo valuteranno i magistrati. A processi aperti il vicepresidente CSM non esprime giudizi. E quindi non può anche dirmi se non sarebbe stato meglio fermare prima questo rischio? Secondo me sarebbe stato meglio fermarlo prima. Ecco, onorevole Nignini, mi dice tre cose certe che lei vorrebbe riuscire a fare durante il suo mandato. Dare la prova in concreto che la magistratura italiana accetta il terreno e la sfida delle riforme, del miglioramento del sistema. Secondo, accrescere quella capacità appunto di comunicare le decisioni, non le intenzioni, i fatti, e quindi il grado di conoscibilità, di trasparenza delle decisioni che si assumono, e poi coltivare un'altra ambizione, quella cioè di porre a capo degli uffici giudiziari italiani chi per davvero lo merita e chi ha capacità organizzative. Noi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, saremo chiamati a ridisegnare i vertici degli uffici giudiziari, non solo delle procure, di tribunale, della corte d'appello, certo, e quant'altro. Se vinciamo quella sfida, se governiamo bene, questo significa superare la logica delle correnti, no? In qualche modo. Se tu privilegi il merito, non puoi privilegiare l'appartenenza, questo va da sé. Ecco, questo sarebbe, diciamo, un obiettivo di questo CSM. Questo è un lei. Obiettivo ed è condiviso anche dalle correnti. Poi dovremo vedere se la prova dei fatti questo si verificherà. Senta, per la lentezza dei processi, il presidente Grasso dice causa che pende, causa che rende. C'è una commistione fra avvocati e giudici su questa linea? Guardi, questo è un vecchio detto dell'avvocatura. Quando io iniziai a fare pratica forense, il vecchio avvocato, che mio maestro, mi disse esattamente questa frase: più pende più rende. Dobbiamo fare in modo che l'avvocatura italiana non agisca in questo modo, e io credo che abbiamo fatto passi avanti notevolissimi, soprattutto tra i nuovi avvocati, i giovani avvocati, che pensano che è molto, rende molto di più, meglio concludere, decidere e realizzare giustizia che non vivere di pendenze e di rendite conseguenti. Ecco, le faccio un'ultima domanda, onorevole Legnini. Per quanto ne sa lei, la riforma della giustizia fa parte integrante del patto del Nazareno? Non conosco il patto del Nazareno, o meglio, conosco ciò che si è detto e si è scritto sul patto del Nazareno. La riforma della giustizia è una necessità per il Paese, bisogna farla. Grazie. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, Mario, che titolo faresti intanto tu sull'intervista di Legnini? Legnate. Ovviamente. Bella intervista, eh? Grazie. Tu Pietrangelo? Io farei magistrati da rottamare. Magistrati da rottamare. Mi pare che ci sono titoli. 800 24 00 24 numero verde. SMS 349 238 6666 la canzone. Ma che cosa ne sarà di me? Di un po' l'uomo senza tempo, senza il più grande sentimento. Sarà, mi guarda ancora come se fosse amore, ma ho perso l'anima in tali, mille carezze sulla pelle mia, rimane indifferente il cuore povero. Ho visto che sta metropolitana rischi, ho visto. Anche perché in metropolitana c'è la possibilità di incontrare qualcuno con cui giocare a dadi e perdere l'anima, eh? Stefano Vergani con l'orchestra Acapulco e senza più tempo, senza più sentimento, un povero cuore di poveri tutti, senza patimenti, senza più la possibilità neppure di catturare le stelle cadenti, i tramonti lontani e i baci che diventano spigoli perché tutto è festa, le donne vampeggiano, però non c'è più un accenno di dolore e l'amor che viene e va mai più ritornerà. Oggi una bolla, ma una bolla bomba? Una bollona. Vabbè, sentiamo. Dai. Attenzione, sorvegliante! Avaria al banco 5. Controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5. Attenzione, sorvegliante! Beh, tempi moderni, parliamo un po' di ripresa, crescita, industria. Allora, oggi escono i dati sulla produzione industriale, tra un po' ci siamo, di Francia, Italia, Olanda, sono usciti quelli sulla Germania, non erano buoni agosto su luglio, c'era una flessione molto forte della produzione industriale, vediamo che cosa succede. Io segnalo che il 57% dei beni prodotti dalla Germania vengono esportati in altri paesi dell'Unione Europea, quindi se noi ci fermiamo, la Germania rallenta per forza prima di tutto. L'altra cosa da tenere d'occhio è che in Giappone, sapete che è un paese che bisogna monitorare, sempre seguire, sì, l'indice di fiducia è sorprendentemente sceso sotto i 40 punti, già sotto i 50 significa che i pessimisti sono più degli ottimisti. In questo caso è interessante capire perché. Quindi insomma, un po' di crisi nelle Abenomics. L'aumento delle tasse ha provocato un problema. Il petrolio è un altro indice da seguire perché il November Brent è a 88.42 dollari, è il prezzo più basso dal 2010, questo significa che non ci sarà ripresa. Insomma, sta incominciando la crisi anche del petrolio. Sì. Salamino. Sì, sì. Tribunale di Palermo ha blindato la testimonianza di Giorgio Napolitano. Totò Riina non potrà essere presente di persona personalmente al Quirinale. E quindi si solleva il problema del diritto alla difesa che viene sacrificato sull'altare dell'immunità del capo dello Stato. Mancò il collegamento video, quello con Riina, Bagarella e Napolitano. Infatti, per tramite della matita di Vauro dice: niente video, niente saccio, niente dico. Ma non finiscono qui le pene e le nequizie per il capo mafia detto Ucurtu. Ieri, di levata di pranzo, si ritrovò addosso il tweet di solidarietà di Sabina Guzzanti. Ma, signori miei, caro Giovanni, caro Mario, cari ascoltatori tutti, al vispoteresismo non c'è più fine, perché peggio della Guzzanti, a meno che, caro Mario, non sia un fake, Laura Boldrini, la signora presidente della Camera, per solidarietà alla vicepresidente dell'Assemblea francese che veniva ripetutamente chiamata presidente, Madame Presidente, ha mandato questo tweet dove dice che ci vuole il rispetto di genere. Ora io a voi sottopongo un quesito. Madame è un'offesa. Che? Dici che è un'offesa, tu la devi chiamare la Presidente. E no? Basta. E basta. Senza Madame. Senza mettere, insomma, ci vuole il rispetto di genere. Io vi faccio un quesito da cui non voglio però risposta, essendo ora orario che non si può dire questa risposta. Ma qual è quella cosa importantissima maschile che viene sempre nominata al femminile? Oddio. Ci sono state fatte pagine di letteratura con Brancati. Ma io adesso voglio dedicare e brindare alla felicità del genere con questa, non con una bottiglia alcolica, essendo noi antialcolici, ma con una bella fanda dedicata alla presidenta Boldrini. Prima sì. Della nostra posta del cuore del venerdì. Stamattina molta musica giovane. Senti, sì. Senti, tirala su, dai. Però voglio ballare. Vabbè. Quasi, quasi. Senti, no, è una cosa brevissima, solo un consiglio. Ai politici, tenete d'occhio i millennials, perché quelli votano, sono quelli che sono nati dagli 80 ai certo. Primi anni del 2000. Segnalo che la Casa Bianca sta facendo una campagna social molto grossa e non è fuffa, ma è piena di dati economici, di cose importanti su questo gruppo di persone che influenza gli stili di vita, di consumo e vota, e in fondo è il futuro. Quindi stateci attenti, prendete esempio, questo è un buon esempio che viene dagli Stati Uniti. Sempre cose un po' copiritolle, giusto? No, no, no, no, no, questa è una cosa seria, sono i tuoi figli, buttafuoco. Esatto, e allora sentiamo oggi che cosa dice la nostra posta del cuore. Una gran voglia di spaccarti la faccia. Spaccamela. Spaccami la faccia. Vuoi spaccarmi la faccia? Siamo stati tremendi, ma c'era qualcosa tra noi che ancora c'è. Non abbiamo ancora superato il livello di guardia. Io sì. Non ne sono convinto. Nessuna che fa un patè così buono può essere tanto cattiva. Dipende da con che cosa è fatto quel patè. Wow. Benny? Un cane buono fino all'ultimo morso. No! Questa è una gara di caduta rapida verso il basso, hai vinto. Sei piombata di botto nel più profondo strato di merda fossile uscita dal buco del culo del più stronzo degli ominidi. Non succede solo al cinema. Sentite infatti cosa ci scrive Carlo. Disprezzo la violenza, in 40 anni non ero mai arrivato alle mani con nessuno, figuriamoci con una donna. Poi è arrivata lei. Mai fatto sesso così, mai amato così, mai odiato così. Le sue parole dolci sono diventate aggressioni verbali, le discussioni liti furiose. Ho subito insulti, anche botte, finché le ho mollato uno schiaffo in pieno volto. Mi sono sentito morire, ma lei è scoppiata a ridere. Voleva quello. Allora io non ho mai capito niente. Comunque mi ero ripromesso che mai più, e invece continua a succedere. Mi sento più vittima che carnefice, però mi faccio schifo. Sentiamo un uomo, uno a caso. Pietrangelo, che cosa ne pensi di questa lettera di Carlo? Ti sei mai trovato in una situazione simile? Non ho capito. Ha detto che si fa schifo? Sì, alla fine dice che si fa schifo, che è più vittima che carnefice. Vero, vero, fa schifo. Ma chi? Lui. Orrendo. Vero? Vero. Una cosa impressionante. Ma che cos'è questa modernità? Già ci avete fatto la testa tanta con tutte queste discussioni, queste cose complicate, le naticate, basta! Le naticate? Le naticate? Insomma, che cosa fanno, no? Che cos'è che ha detto? Una timbulata, la timbula, sì, sarebbe la guancia, giusto? Sì, sì. No. Sai come si diceva una volta? Come una rosa al naso. Questo l'anello è il patto che si stabilisce tra l'uomo e la donna. Una distanza che è segnata proprio dall'aroma, dal profumo, dal soffio che dai petali emana. Mamma mia. Io sono meno poetica nell'approccio. Dico, Carlo, ma diciamo che se la prende a schiaffi forse non sarà perché decide di prenderla a schiaffi, e poi dico, boh, si fa schifo però continua a farlo, allora forse lei ci prova gusto a sentirsi che fa schifo, oppure a picchiarla, insomma faccia lei, ma diciamo che il termine vittima con me oggi non può proprio passare. E poi, ma vittima di chi? Cioè, vittima di se stesso Giovanni, no? Vittima del suo piagnucoloso vittimismo. Insomma, Carlo, faccia l'uomo, vogliamo un uomo vero, la pianti di alzare le mani, e suggerisco a tutti e due l'iscrizione a un bel corso di pugilato, penso che guantoni paradenti possano essere d'aiuto. Scriveteci a mix24@radio24.it e ne parleremo con voi. Ottobre del 90, durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento di via Montenevoso a Milano, un muratore trova un mucchio di foglie di carta. È il memoriale di Aldo Moro, scritto durante i giorni della sua prigionia e ritrovato in uno dei covi delle Brigate Rosse. A Mix 24 con Marina Milone ricostruiamo il mistero di quel documento di enorme valore storico subito dopo la pubblicità.